Noi abbiamo scelto di non riaprire firmando una lettera aperta, un documento che è stato sviluppato in rete, perché non siamo del tutto convinti della scelta di riaprire oggi le librerie per decreto. I motivi sono tanti, molto molto complicati, cerchiamo di semplificare, ci sono questioni di ordine pratico che riguardano la sicurezza e anche l'aspetto economico di una riapertura così al buio, questioni che riguardano tutti gli ambienti del commercio, che si trovano a riaprire in questi giorni e che si troveranno a riaprire dal 4 maggio, però ecco, queste tre settimane di anticipo ci hanno preso molto alla sprovvista. E poi c'è la questione, una questione più teorica, diciamo, tutta la retorica che è montata nelle scorse settimane sulle librerie come farmacie dell'anima non ci trova assolutamente d'accordo. Pensiamo di essere dei lavoratori normali come tutti gli altri, di non essere dei farmacisti dell'anima, per cui l'idea di riaprire un mito fatto di venerdì santo per il martedì successivo lo abbiamo trovato davvero molto incongruo. Detto questo, cercando di approfondire pure un po' l'analisi, quello che pensiamo noi in particolare è che ci siano delle grosse spinte da parte dei grandi gruppi editoriali per far ripartire la filiera del libro, per far ripartire la distribuzione, per riaprire le loro grandi catene, per far uscire tutti quei libri che sono rimasti appesi dall'inizio di marzo a oggi. Quindi insomma, la retorica del simbolo, della libreria come simbolo, del libro come bene essenziale, dietro c'è sempre degli interessi economici. Noi cerchiamo un attimo di stare alla finestra e aspettiamo di capire meglio come andranno le cose. Mi concentrerei anche su quella economica che hai evocato. Che conseguenze potrebbe avere una riapertura oggi, appunto, per le librerie? Una questione economica è che, non so, magari tanti colleghi sono riusciti a fare una ricontrattazione dell'affitto, delle mura, dei loro locali. Se si riapre, quella ricontrattazione non credo che rimanga in piedi. Se riaprendo ripartono tutte le spese vive di un'attività, quindi le bollette, le fatture di acquisto che ricominciano a correre e così via. E questo a fronte di cosa? A fronte di un paese che ancora vive per i comuni cittadini delle restrizioni fortissime alla mobilità e quindi il rischio di mettere in moto una macchina che poi non si hanno i soldi per finanziarla, per diciamo, coprirla economicamente. Diciamo questo anche perché nelle scorse settimane i librai non è che sono stati fermi ad aspettare che qualcuno venisse a salvarli, ci sono tantissime partite che hanno coinvolto centinaia di librerie in giro per tutta l'Italia, in merito all'attivazione di servizi di consegna a domicilio, in merito a progetti come libri da sporto, pure a libri con le ali. Quindi ci sono tanti modi in cui ci si è ingegnati per mantenere un contatto con i nostri amici, i nostri clienti. Forse si poteva fare anche più attenzione a questo, invece di mettersi lì a trasformarci in tanti santini coraggiosi. All'interno del decreto Cura Italia ci sono misure di sostegno alle vostre attività? Ma per adesso non si vede niente di sicuro, c'è un credito d'imposta del 60% dell'affitto del mese di marzo e poi ci sono tutte le misure che valgono per tutti gli altri lavoratori, quindi famose 600 euro per i lavoratori autonomi e la possibilità di accedere alla cassa integrazione, ma da quanto leggevo anche stamattina ci sono parecchi problemi. Quindi non si vedrà per adesso, non si hanno per adesso insomma delle garanzie di nessun tipo, ma questo, ripeto, vale per noi come vale per tutti quanti gli altri. Per noi non c'è niente di speciale, cioè, noi siamo considerati come venditori di un bene essenziale, ma non si è fatta nessun tipo di ragionamento, nessun tipo di analisi prima di sbandierare la riapertura del nostro settore da venerdì a oggi.